Le donne. No, sapete perché? Perché in questo paese c'è solo una cosa peggio degli uomini. Le donne. In questo paese le donne non sostengono le donne. Nella famiglia, nell'arte, nella politica. Una donna non voterà mai una donna. Perché? Perché è una donna. In questo paese le donne sostengono gli uomini. È una tradizione, come le fave col pecorino. Non ci credete? Guardate nel cabaret. Ci sono uomini che hanno fatto la loro fortuna parlando male di noi, tirando fuori tutti i luoghi più comuni, e noi paghiamo il biglietto perché ci piace. Non è banale masochismo, no, è che siamo abituate all'idea di essere strapazzate dagli uomini, perché più ci strapazzano e più ci sembrano intriganti. Anzi, l'equazione è: più è stronzo e più è maschio. Un uomo che mi rispetta è frocio. E poi sentire questi comici che sciorinano tutte le nostre debolezze, dai, diciamoci la verità, ci fa sentire meno sole, perché ti dà la certezza che anche le altre stanno nella merda esattamente come te. E a quel punto non ti senti più l'unica sfigata che si sveglia la mattina, prepara la colazione, già che c'è pure il pranzo, prepara il bambino, lo porta a scuola, va al lavoro, esce dal lavoro, riprende il bambino, lo porta a nuoto, presenzia una riunione di classe, poi a una di condominio, torna a casa e che è? Sfatta, col trucco sbafato, i piedi che sono due pantecane bollite. Se ci tieni al tuo menage, mica ti puoi far trovare così. Poi se ti tradisce con una più giovane, c'ha ragione. Su, tirati su, ti infili un paio di leggings push up e un scarpe col tacco 14, mentre con una mano prepari la cena e con l'altra rispondi a una richiesta di amicizia su Facebook e a un messaggino su WhatsApp. Lui latita. Vai a dormire, stravolta. Il giorno dopo ti svegli, prepari la colazione, già che ci sei pure il pranzo, porti il bambino a scuola, vai al lavoro, esci dal lavoro, riprendi il bambino, lo porti a karate, presenzia una riunione di classe di musica, hai un'altra di condominio, torni a casa e che è? Sfatta, col trucco sbafato, le pantecane bollite che dopo due giorni cominciano a emanare un odore sinistro. Lui, che fai? Se ci tieni al tuo menage, mica ti puoi far trovare così. Su, poi se ti tradisce con una più giovane, c'ha ragione. Tirati su, ti infili un paio di leggings push up, scarpe col tacco 18, mentre con una mano prepari la cena e con l'altra mandi a fanculo uno su Facebook che t'ha pure messaggiato su WhatsApp. Lui latita. Vai a dormire, stravolta. Il giorno dopo ti svegli, prepari la colazione, già che ci sei pure il pranzo, prepari il bambino, lo porti a scuola, vai al lavoro, esci dal lavoro. Non vi siete rotte i coglioni? E figuratevi io. E poi provateci voi a mettervi le scarpe col tacco 18 sulle pantecane bollite. E se questa donna viene tradita, non è mica lui ad essere un po' promiscuo, un superficialotto, un mezzo quello che volete voi. No, è colpa dell'altra, quella lì, quella bastarda, maledetta, stronza, zoccola, sfascia famiglia, morì ammazzata. E sicuramente single, perché solo single fanno queste cose, single, egoista come tutti i single. La misoginia in questo paese cresce in seno alla famiglia, si trasmette direttamente dalla madre ai figli con latte materno, ma anche con quello in polvere, Se il bambino è maschio, quasi sempre è intelligente, sveglio, un genietto in nuce. Poi, se a scuola si rivela una pippa, è perché è un genio. Pure Einstein andava male a scuola. I geni mica possono stare dietro se stronzate, su. Se invece è femminuccia, se è carina, se è quasi conquistata il diritto all'esistenza, ma se c'ha qualche imperfezione. Un tempo in convento, suora. Dopo, durante il governo Monti, in politica, al governo tecnico. Adesso in sindacato, col camusso. Mia madre ancora adesso, ogni tanto, quando la vado a trovare, mi fa... stai bene, Ma quanti anni c'hai? Mamma, a parte il fatto che te lo dovresti sapere, però non me lo ricorda, no? No, ma mica li dimostri, No, non le dimostri per niente. meravigliava e che, fate vedere, beh, certo, un po' più di te, ti sarebbero state male, ti avrebbero dato più slancio, più... però guarda, se t'abbronzi un po' e ti schiarisci i capelli, puoi quasi somigliare a quella di Report. Mamma, io non sono andata in menopausa, sono andata in andropausa, non mi sono cresciuto nemmeno di un grammo, che vogliamo fa? Avete capito perché non mi sono riprodotta? Per paura che mi venisse maschio e stronzo come tutti gli altri, e sicuramente mi sarebbe venuto maschio e stronzo come tutti gli altri, magari pure omofobico, con l'unica ambizione di essere, di diventare calciatore della Lazio. Le mamme italiane sono più mamme di tutte le mamme del mondo, tanto che si dice che qua ce n'è una sola, una, la mia. E poi una dei che, ormai con queste famiglie allargate, io conosco uno che ce n'ha tre, un ragazzino, c'ha tre mamme, tre, c'ha 10 anni ed è in analisi da 11. Comunque, in questo paese, poi, se per caso vuoi fare la comica, minimo di che devi parlare? Del perizoma. Quale mi metto stasera? Rosso, aggressiva. No, bianco. Educanda, nero, classico, non sbagli mai. Non me lo metto proprio. E se poi ci vuoi anche guadagnare, conosco una comica, a quel punto ti devi proprio dare addosso, conosco una comica che per lavorare doveva darsi, in ordine, della scema, della cessa, della cellulitica, della pelosa. Ma io, nonostante abbia tutte e quattro queste decantate qualità, che ci posso fare? Sono una gran figa.